consiglio. Galileo, ove ceglia? Ceglia, oddio, di chi tu chiedi? Ah, poverina, addio. Mal risposta, io tremo tutto. Nerina, ceglia da te. Che mai dirò? Rispondi! All'indorno di me tu la vedesti. E cosa ti ho da dir se sto piangendo ed io la febbre adesso? A quel funesto nero preludio di sventure